d'amore, togli la mia rosa d'amore, regala il suo profumo alla gente, togli la mia rosa di niente. La miniera il carbone a Natale verrà, con i muri bianchi di calcio, la festa del santo, il giorno del pianto, cogli la mia sera d'aprile, scrivevo parole, facevo all'amore, lasciale almeno i ricordi le loro mani nel piede. Thank you.